Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, nella quale parleremo di buone pratiche. La prima buona pratica è quella del riciclo, la seconda è quella di un uso più consapevole dell'acqua. E allora cominciamo dal riciclo. Molte città italiane, lo avrete notato, sono tappezzate in questi giorni da cartelloni pubblicitari che invitano a riciclare il Tetra Pak, che è il contenitore di molti alimenti liquidi, latte, succhi di frutta, per esempio. Fino ad oggi, infatti, la maggior parte dei comuni italiani non era attrezzata per riciclare il Tetra Pak e in generale i poliaccoppiati, cioè materiali in cui il cartone è accoppiato ad altri materiali. Nel caso del Tetra Pak, il cartone è accoppiato a un film plastico e a una carta stagnola, potremmo dire. Cosa è cambiato e perché adesso si riesce a riciclare il Tetra Pak? L'abbiamo chiesto a Carlo Montalbetti, che è direttore generale di Comieco, ovvero il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a Base Cellulosica. La questione era una questione proprio legata alla tecnologia. Attraverso ovviamente uno sviluppo sotto questo versante produttivo si è alla fine riusciti, almeno per una parte importante del sistema industriale delle cartiere, sono 27 in Italia, a poter introdurre anche il poliaccoppiato a base cellulosica tra diversi materiali che vengono raccolti attraverso sostanzialmente le raccolte differenziate comunali. Quindi queste 27 cartiere sono in grado di recuperare, tutte 26, di riciclare questo materiale. Anche questo materiale, perché attraverso il ciclo produttivo vengono separate le componenti, diciamo, plastica-metallo e invece pienamente utilizzato il cartone. Quindi il Tetra Pak si mette nei bidoni della raccolta differenziata della carta. Si mette insieme ai giornali e al cartone, direi in una larga parte dei comuni italiani, pensate a Milano, Roma per esempio, con un'avvertenza, mi raccomando, per quanto riguarda i consumatori, non solo di provvedere alla raccolta differenziata, ma di conferirlo dopo che sono state tolte le parti, diciamo, estranee, mi riferisco ai tappi che ormai molti contenitori in poliaccoppiato hanno, che sono fatti con materiale diverso, può essere separato per esempio quando è plastica, mandato nella raccolta della plastica e soprattutto risciacquati. Che cosa se ne può fare di quello che si ottiene dal riciclaggio del Tetra Pak? Questo prodotto, viaggiando con gli altri materiali cellulosici, viene utilizzato per diversi tipi di produzione. Produzioni prevalentemente nel settore dell'imballaggio, quindi vengono poi utilizzati per produrre nuovo cartoncino e cartone, da cui avremo poi astucci, scatole, scatolette, scatolone. Tenete conto che l'imballaggio in Italia è fatto quasi ormai per il 100% con materiale di raccolta, quindi noi abbiamo su una produzione nazionale intorno ai 10 milioni di tonnellate, 5 milioni e rotti di tonnellate di materia prima per produrre gli imballaggi sono a base di macero, cioè da raccolta. Beh, questo è già un bel passo avanti, direi. Beh, l'Italia da questo punto di vista è tra le più riciclone. Perché? Perché essendo un paese ricco di boschi poveri ha dovuto cercare ovviamente in tecnologie diverse la materia prima seconda su cui lavorare. Quindi ha sostituito le importazioni di cellulosa con l'utilizzo sapiente del macero e che è stato sostanzialmente indirizzato nel settore dell'imballaggio. Adesso crescono anche altri comparti come la carta grafica da giornale, l'igienico-sanitario, ma l'imballaggio, come le stavo appunto dicendo, è essenzialmente a base di macero. Senta, questo esula leggermente dal contesto Tetra Pak, però ho visto recentemente una sua intervista in cui lei diceva l'Italia esporta più carta da macero in Germania rispetto a quella che importa. Anche questo fa parte del contesto Italia riciclona, direi, insomma, delle certamente note positive. Esatto, perché è stato cambiato un fondamentale dell'economia, mentre noi fino a circa 10 anni fa eravamo importatori storici di materia prima e quindi anche di maceri dall'estero, da 3 anni a questa parte stiamo diventando esportatori netti. Quindi informatevi, scoprite se il Tetra Pak si può riciclare anche nel vostro comune. L'altra buona pratica di cui parliamo oggi ci porta non lontano da Milano, in Brianza, dove è stato varato il progetto Acqua del Sindaco. Le scuole di 9 comuni hanno infatti deciso di passare a utilizzare l'acqua del rubinetto nelle mense, quindi hanno installato appunto un rubinetto, un erogatore, nell'aula dove si mangia, dove i bambini sono riuniti per mangiare. Non per criminalizzare l'acqua in bottiglia, spiegano, ma per far capire che si può scegliere. L'acqua del rubinetto è buona e usando quella la scuola risparmia anche denaro. Poi, se a casa si preferisce comprare l'acqua confezionata, ciascuno decida per sé. Filippo Carimati è il presidente di Brianzacque, ovvero la società di servizi idrici della zona, che ha ideato e diffuso il progetto. È un obiettivo che ci siamo dati anche su sollecitazione di alcune amministrazioni comunali. E ne abbiamo iniziato a parlare quest'estate, nel mese di giugno, e abbiamo attivato per le prime scuole il servizio nei giorni scorsi. Quindi tutto sommato non ci è voluto neanche tanto a convincerli? No, non solo non ci è voluto tanto a convincerli, ma noi abbiamo fatto la proposta a tutti i comuni per i quali gestiamo l'acquedotto proprio su sollecitazione di alcune amministrazioni comunali. Altre poi vi hanno aderito e altre speriamo aderiranno in futuro. Al momento quante sono? 9. 9. E le scuole interessate? Sono 9 perché abbiamo cominciato un plesso scolastico per ogni comune e adesso poi andremo in estensione su richiesta loro quando vorranno. Noi abbiamo definito il modello di intervento e a richiesta ci presentiamo con le attrezzature. Mi hanno detto insomma che avete dovuto fare anche uno studio particolare, diciamo, sulle brocche da utilizzare. Sì, perché ovviamente siccome devono essere utilizzate nelle mense con i bambini, sui tavoli dei bambini, non potevano essere di vetro perché sarebbero rotte, la plastica non è consigliata, e allora abbiamo preso questo materiale, questo policarbonato che sembra essere il migliore perché non si rompe, protegge bene il liquido, è facilmente lavabile, insomma. Senta, i genitori cosa hanno detto? Da parte di molti è stato dato un apprezzamento incondizionato. Mi risulta proprio oggi che ci sia qualche riserva in alcune scuole da parte di qualche genitore, ma queste sono questioni che affronteremo, forse sono più riserve mentali legate un po' all'abitudine che non a dati concreti, insomma. Senta, questa è un'iniziativa che interviene sui bambini perché poi in futuro appunto educhino anche loro le famiglie. Esatto, su un piano invece più degli adulti, magari per quanto riguarda, non so, imprese. Noi ovviamente per le scuole pubbliche abbiamo preparato, cioè abbiamo regalato le brocche, eccetera, cosa che non possiamo fare per i privati, l'abbiamo fatto per le scuole anche come promozione. Però certamente se i privati ci interpellano, il distributore costa relativamente poco, sarà facile andare incontro alle richieste di tutti. Alberto Sala invece è un chimico e responsabile del laboratorio di analisi di Brianzacque. Ci parla dell'acqua della sua Brianza, ma non solo. Ci darà anche qualche buon consiglio per chi vuole mettere quei piccoli depuratori casalinghi che adesso vanno molto di moda. Noi già abbiamo una programmazione analitica annuale che quindi non si occupa soltanto dei punti di captazione, quindi dei pozzi e dei serbatoi d'accumulo, ma abbiamo proprio anche dei punti sulla rete che generalmente nel nostro territorio corrispondono con edifici pubblici, quindi scuole oppure fontanelle di parchi, e comunque sono in genere punti fruibili ad un pubblico abbastanza numeroso, per cui avevamo già anche una storia all'interno delle scuole, nella maggior parte delle scuole anche una storia, una serie di dati analitici non indifferenti. Quello che appunto io ho promesso adesso anche con il prossimo anno scolastico, nel prossimo anno solare, ogni anno io riguardo la programmazione analitica e quindi inserire questi punti nuovi di erogazione come punti di controllo della qualità dell'acqua distribuita, e mi piacerebbe poi a fianco di ogni erogatore mettere la cartellina di plastica dove periodicamente possa essere sostituita, quelli che sono i parametri fondamentali che siamo abituati a leggere poi sull'etichetta, che sono pH, conducibilità, il residuo fisso, il contenuto di calcio e magnesio piuttosto che di sodio e di potassio. E quindi voglio dire, ecco, per esempio un mito da sfatare, il contenuto di calcio e magnesio che poi sono i responsabili del calcare, perché la gente è abituata ad associare acqua dura, acqua calcarea a calcoli renali, e non è proprio così. nel senso che salvo particolari patologie, anzi, recentemente una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità dello scorso anno ha evidenziato che la durezza dell'acqua protegge il cuore ed è inversamente proporzionale all'insorgenza di malattie cardiovascolari. E non per niente, infatti, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda adesso che anche nei trattamenti di desalinizzazione, che sono poi anche quegli apparecchi che vengono usati sia a livello industriale che anche tanta gente magari si mette quei piccoli apparecchi di trattamento domestico, ecco, bisogna sempre far sì che in uscita ci sia un quantitativo di sali di calcio e magnesio ben definito, per esempio non dovrebbero mai essere inferiori a 60 mg litro di calcio. Sento una curiosità che mi viene proprio a proposito di chi in casa ha questi apparecchi o comunque ci sta pensando, perché comunque è una cosa sempre più diffusa. Se io decido di controllare la qualità dell'acqua che esce da quell'apparecchio, posso far fare delle analisi a chi vado a un laboratorio e chiedo guardatemela per allora dire? Facciamo anzi un passo indietro, in teoria andrebbe fatta, perché allora come, forse non l'ho detto prima, come esiste una legge che regolamenta le acque potabili o, come meglio ben detta, acque destinate al consumo umano, ne esiste un'altra, non è la stessa, che regolamenta le acque minerali. Quando andiamo a parlare di apparecchi di depurazione domestica, usciamo da entrambe, perché c'è proprio invece un decreto ministeriale, che è il 443 del 90, che proprio regolamenta le disposizioni tecniche per queste apparecchiature di trattamento domestico. Addirittura, poi non so quanti lo facciano, ma l'articolo 3 prevede di questo decreto che se io a casa mia installo un impianto di trattamento domestico dovrei notificare all'unità sanitaria territorialmente competente che io in casa mia ho installato questo apparecchio, perché se il gestore mi garantisce la qualità dell'acqua fino al punto di erogazione, che è il mio contatore, in teoria io non dovrei, con i trattamenti che metto in campo nella mia abitazione, non dovrei andare a peggiorare le caratteristiche, oppure addirittura far sì che la qualità dell'acqua che esce da questi rubinetti non rientri più nei limiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano. Ma è chiaro, voi siete responsabili, cioè, fino al contatore. Noi, se poi io sono una casa stravecchia con tubature stravecchie, lì allora, piccoli accorgimenti sono quelli. Allora, questo lo diciamo in genere proprio d'uso, senza arrivare allo spreco. La mattina, appena uno si alza, l'acqua è rimasta tutta la notte nelle tubature, faccio scendere un po' di acqua per dare il ricambio e potrei utilizzarla magari raccogliendola in un catino e utilizzarla per bagnare i fiori del terrazzo. E siamo in conclusione, grazie a tutti voi per l'ascolto. Per segnalarci le vostre buone pratiche o le buone pratiche di cui venite a conoscenza, vi ricordiamo respiro@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora e buon ascolto da Laura Bettini.